719. Un uovo per un bambino. Non sapete come quietare un bambino che piange perché vorrebbe qualche leccornia per colazione? Se avete un uovo fresco, sbattetene bene il torlo in una tazza in forma di ciotola con 2 o 3 cucchiaini di zucchero in polvere. Poi montate soda la chiara ed unitela mescolando in modo che non smonti. Mettete la tazza avanti al bambino con fettine di pane da intingere, con le quali si farà i baffi gialli e lo vedrete contentissimo. E magari i pasti dei bambini fossero tutti innocui come questo, che per certo ci sarebbero allora meno isterici e convulsionari nel mondo, voglio dire degli alimenti che urtano i nervi come il caffè, il tè, il vino e di altri prodotti fra cui il tabacco, i quali per solito, più presto che non converrebbe, entrano a far parte nel regime della vita domestica.